spiavo nella stanza, un profumo invase l'anima e una luce prese posto sulla cima delle palme. Con te dietro la finestra guardavamo le rondini sfrecciare in alto e in verticale lungo strade di campagna. Stavamo bene, per orgoglio non dovevi lasciarmi andare via, lasciarmi andare via. Quando me ne andai di casa, finsi un'allegria ridicola. Dei ragazzi uscivano da scuola, dietro alla stazione, sopra una corriera, laddì.